Mezzogiorno è 04, siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Sapienza Clandestina, una trasmissione di approfondimento sul mondo della formazione. Noi abbiamo in collegamento uno studente del liceo Manzoni di Milano, scuola che si dovrebbe trovare al terzo giorno di occupazione, se non vado errato. Ci senti? Sì, mi sento. E ti chiediamo appunto di raccontarci la mobilitazione, come va questa occupazione e ovviamente i motivi della protesta e le prospettive. Noi abbiamo iniziato, come hai detto tu, 3 giorni fa, con un'assemblea in palestra partecipata da tutti gli studenti della scuola, e abbiamo preso la decisione di occupare, che comunque si stava già discutendo da diversi mesi in varie assemblee. E la decisione è stata presa perché la componente studentesca di questa scuola è sempre stata molto forte e attiva storicamente, e negli ultimi anni, sia per l'introduzione dell'ultima riforma della scuola, sia che per non so, magari anche un cambiamento, oserei dire generazionale o qualcosa del genere, sta venendo sempre meno sotto i nostri occhi. E quindi con questo gesto e con questa azione volevamo riprenderci alcuni spazi creando anche degli ambiti di discussione su tematiche interne alla scuola, soprattutto sull'alternanza scuola-lavoro, ma anche su molte altre, per ridare una parte attiva agli studenti. E sta funzionando bene, ci sono molti laboratori sui problemi che ci sono dentro la nostra scuola, e oggi porteremo i primi risultati al consiglio d'istituto, alla presidenza, per vedere se verranno accettati. Se verranno accettati porteremo gli altri e vedremo per quelli, se non verranno accettati vedremo cosa fare, come agire. Sì, io diciamo appunto abbiamo durante l'anno noi proviamo a metterci in contatto con tutte le città che tutte le scuole che portano avanti mobilitazioni e questa trasmissione nasce apposta per dare spazio. Mi pare che in questa prima parte dell'anno non ci siamo mai messi in contatto con voi, forse abbiamo raccontato brevemente qualche corteo. Se ti chiedo di fare anche un passo indietro, se ti va di raccontare un po' l'autunno all'interno delle scuole di Milano. Sicuramente ricordo che ci sono state altre occupazioni portate avanti nell'istituto, in istituti del capoluogo lombardo. Qua a Roma ci sono state diverse scuole che hanno avuto molto problemi con le forze dell'ordine legate a sgomberi all'interno delle occupazioni, ingressi della Digos, identificazioni. Diciamo che abbiamo notato come negli ultimi anni, a differenza di qualche anno fa, la questura si prenda sempre più libertà nei confronti delle scuole occupate. Questo fa parte sicuramente anche di un processo di critica, anche viene fatto sul mainstream rispetto alle mobilitazioni studentesche, che magari era più lieve qualche anno fa. Ti chiedo un po', rispetto anche a questi cambiamenti che abbiamo visto qua nella città di Roma, di raccontarci della stagione delle occupazioni che c'è stata a Milano, anche con la sua assenza e i suoi lati negativi, e oltre a quello che avete fatto voi. Ma quest'anno ti posso fare l'esempio del Tenca, c'è un altro liceo di Milano che ha tentato di occupare sempre per dare più spazio agli studenti dentro la scuola, che loro diciamo accusando un po' il colpo della legge 107 o buona scuola. E il problema nel loro caso è stato diverso, e mi dà anche l'occasione di portare solidarietà, perché è successo che l'occupazione è stata diciamo impedita dal fatto che un grosso numero di studenti non si sia si sia distaccato dall'azione, e quello che è successo è che però il preside ha sospeso una ventina di persone solo per aver fatto un picchetto pacifico, dicendo che avevano, non ricordo se ferito o comunque fatto sentire male una commessa, che erano stati violenti. Abbiamo fatto pochi giorni fa un presidio sotto la loro scuola mentre si svolgeva il consiglio d'istituto, in cui avrebbero deciso se sospendere o no gli alunni, cosa che poi ovviamente è successa, e questo è stato il problema. Diciamo che con la buona scuola i presidi hanno molta più libertà e molta più forza legalmente, e quindi questo nella nostra città è stato un problema. Poi c'è anche un problema oggettivo di poca partecipazione negli ultimi tempi, forse anche su questo bisognerebbe riflettere. Sì, io avevo dimenticato di sottolineare uno degli aspetti che anche qua sicuramente rintracciamo, che è quello di una maggiore arroganza da parte non solo delle forze dell'ordine ma anche delle presidenze. Come dicevi, sicuramente la buona scuola ha costruito questa figura del preside manager con dei poteri che riguardano non solo la sfera non unicamente la sfera della formazione, della selezione dei programmi, dei docenti, ma che inizia a prendere piede, diciamo, anche una certa animosità nel reprimere quelle che sono le iniziative da parte degli studenti e le studentesse. Sicuramente poi la partecipazione, l'attivismo che si produce oggi nelle scuole e nelle università non è in una fase particolarmente spumeggiante, però penso che intanto un'occupazione ai primi di a fine gennaio che continua ad andare avanti, che è quello che state portando avanti voi, sia comunque un segnale interessante che comunque dei focolai di resistenza continuano a esserci, e avete anche, diciamo, avuto una buona mediaticità all'interno del mainstream, poiché sono anche all'Aquila, a Caserta, altre mobilitazioni da parte di studenti. C'è anche uno sciopero convocato dai sindacati di base per il 17 marzo, per cui, diciamo, il mondo della formazione, anche se a singhiozzo, continua a mostrarci dei segnali di vita. La nostra scuola ha sempre avuto una partecipazione, come dicevo anche prima, abbastanza elevata, cioè il nostro collettivo gira intorno alle 100 persone di solito, che per i numeri di Milano è molto buono, cioè il nostro collettivo studentesco, e forse c'è anche più consapevolezza sulla legge per il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, perché abbiamo fatto leggere attraverso l'autogestione dell'anno scorso la riforma completa a tutti gli studenti con dei laboratori, facendo poi una giornata aperta alla cittadinanza, e quindi ogni studente ha potuto prendere coscienza della cosa, e questo ovviamente crea più consapevolezza e più delle basi più solide per poi fare questo tipo di azioni più forti come l'occupazione. Bene, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza. Sicuramente, diciamo, anche se andrà avanti l'occupazione, in caso di novità avete il numero di Radio Onda Rossa, che ci tiene particolarmente a dare spazio alle mobilitazioni che vengono lanciate nel mondo della formazione, più in generale a dare voce a tutte le lotte. Noi ti ringraziamo. In questi giorni avremo risposto dalla presidenza e faremo sapere.